Al sole che sorgerà, al mare che si alzerà, al buio che celerà, agli uomini sulle sponde, ai secoli di un passato, al tempo che ha perso il conto, al tempo che torna indietro, col tempo ripartirà. C'è un fine che unisce tutti gli uomini, è un filo che lega i nostri cuori spaventati. Stella che protegge il suo cammino, pregherò per l'uomo che al vento che soffierà, al seme che viaggerà, al fiore che nascerà, sul ciglio dell'altra sponda, all'odio che brucerà, al segno che lascerà, al senso che capirò, agli uomini sulle sponde. C'è un filo che lega i nostri cuori spaventati.